vedo il cielo coperto dalla tua imponenza, il sole, la luna e tu, silente lì a guardare il colore, il sapore, la meta di ogni piccolo pensiero, respiri, sei vivo ed io in silenzio qui a sperare la terra in passato ha subito la tua magica irruenza, quei colori, quei sapori ed io costretta ad osservare buio di quella notte, più buio fu quando il sole smorzò le candele, una luce lontana, un calore che anche il sole cominciò a tremare. Eterna.